24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7 e 30 minuti, cari ascoltatori, buona settimana, buongiorno e ben ritrovati a 24 mattino in diretta fino alle 9. Vi ricordo che nel nostro sondaggio di oggi, che già potete votare su radio24.it, bianco o nero, parleremo ancora di mondiali di calcio. Dopo il flop italiano ai mondiali, molti politici, soprattutto leghisti, dicono il problema è che ci sono troppi calciatori stranieri nelle nostre squadre. Siete d'accordo? Questo secondo voi è il problema che ha determinato anche la sconfitta dell'Italia, o meglio il disastro della nazionale? Votate su radio24.it, ne parleremo alle 8.30 ed ora andiamo a scoprire come, cosa ci riservano i giornali in edicola. In primo piano. In questo lunedì 28 giugno le aperture sono per la verità diversificate, come di consueto ogni lunedì. Comuni e regioni sotto esame, questa è l'apertura del Sole 24 Ore sul federalismo, il federalismo che continua a fare i suoi passi, mentre alcuni quotidiani decidono di aprire sul G20 di Toronto. Deficit dimezzati nel 2013, il compromesso dei grandi, questa è l'apertura di Repubblica. Per la stampa, Europa-Stati Uniti accordo a metà. Mentre per il Messaggero il G20 non trova l'accordo. Il Corriere della Sera invece punta sulla polemica tra Vaticano e Belgio dopo la perquisizione della magistratura belga nei confronti della diocesi di Malines. Il Papa contro i giudici belgi, deplorevoli e sorprendenti quelle perquisizioni. Mentre il Giornale la butta sul calcio. Vittorio Feltri fa una sparata contro gli inglesi. A casa i maestrini inglesi, idioti erano, idioti restano. Perché se la prende Vittorio Feltri? Perché ci hanno insultato dopo la Slovacchia, ora meritano lo stesso trattamento. Infine, sull'Unità, come apertura cito ancora questa, sull'Unità c'è Mercedes Bresso, ex presidente della Regione Piemonte, che parla dei ricorsi che ha fatto per l'annullamento delle elezioni regionali, rispettate la legge, elezioni in Piemonte, c'è il TAR che si pronuncerà il 1 luglio su un ricorso. Allora, ma io partirei proprio dalla politica. Nella politica in realtà non è l'apertura dei giornali, ma lo è stato nel weekend, e ancora tiene banco la vicenda Brancheri, il neoministro che ha chiesto il legittimo impedimento, poi c'è stato l'intervento del Quirinale, il passo indietro dicendo ok, vi rinuncio e andrò alle udienze. Ieri ha fatto un'intervista al TG3 nella quale ha fatto un paragone definito da alcuni giornali abbastanza strano, un paragone con l'Italia proprio eliminata dai mondiali. È una cosa indecente, non ho mai visto l'Italia dopo che ha perso i mondiali che se la prenda con me. Ma scusi, così è esordito Brancher nell'edizione del TG3 delle 19. È una vergogna, mi ritengo una persona equilibrata, onesta, di buon senso, ho sempre lavorato. L'opposizione vada a vedere le deleghe. Io ho un sacco di deleghe che devo realizzare, di portare avanti. Ma quali sono, ministro? Quelle scritte, in questo momento qui, così, in cui fate polemica su qualsiasi cosa, quelle scritte sono sulla Gazzetta Ufficiale, se le leggano tutti. Ho visto che non le hanno ancora pubblicate, se le leggano tutti. E quali sono, ministro? Decentramento, federalismo, sussidiarietà, qualsiasi cosa che è scritto, tutto quello che c'è scritto, che è ricco anche di contributi. La Lega sembra averla un po' abbandonata, chiede ancora il giornalista di Rai 3. Non penso proprio che mi abbia abbandonato, non penso proprio. Insomma, la polemica comunque politica che ancora principe sui giornali è proprio questa. Tra l'altro con questo giallo, ma queste deleghe esistono oppure no? Anche Repubblica, pagina 6, dice le sue deleghe esistono, non esistono, dove sono? Un problema sollevato da Napolitano sabato scorso e anche dal PM che dovrebbe processare, che fa parte del processo in cui è imputato anche Brancher e Eugenio Fusco. La promessa è questa, saranno pronte entro 2 giorni. Tra l'altro il ministro Calderoli fa due interviste sia al Corriere della Sera che su Repubblica sul caso Brancher. Perché Calderoli? Perché era stato visto Calderoli come colui che aveva spinto per la nomina ministro di Brancher. Calderoli, Bossi sapeva tutto, festa prima del giuramento. Così a pagina 11 del Corriere un'intervista ad Alessandro Trocino del ministro Calderoli che esordisce così: la sera prima del giuramento festeggiamo insieme io, Bossi, Tremonti e Brancher. E poi parla della vicenda: ha rinunciato al legittimo impedimento, ha fatto bene, scelta giusta per evitare strumentalizzazioni, io stesso gliel'ho consigliato. L'impressione di molti è che sia stato fatto ministro per quello. Ecco, proprio per smentire questa lettura falsa, ha fatto bene a rinunciare. Riguarda le dimissioni, però, dice: non vedo perché debba dimettersi. Il problema è quello proprio delle deleghe, dice Calderoli. Non credo in malafede, ma la delega era sul federalismo amministrativo ex articolo 118. Omettendo per ignoranza l'ultima parola, è sembrato che parte delle deleghe siano state sottratte a Bossi e non al ministro Fitto. Ecco, allora Calderoli dice: ecco, le deleghe dovevano essere sottratte a Fitto, non a Bossi. Bossi era a conoscenza delle deleghe? Certo che lo sapeva. Questo è il punto centrale dell'intervista di Calderoli. La sera prima del giuramento abbiamo cenato insieme con Tremonti e Brancher all'Aeroclub di Roma. In quell'occasione abbiamo festeggiato anche il nuovo ministro. Qualcuno poi ricorda Calderoli che anche lei, prima che la sua posizione fosse archiviata, era indagato nel processo Anton Veneta. Francamente mi cadono le braccia. Io sono incensurato e da indagato sono andato a farmi interrogare, mi sono fatto fare tutti gli accertamenti personali e patrimoniali. Tra l'altro, curiosamente, Calderoli, come detto, fa un'intervista anche a Repubblica e nell'intervista di Repubblica, oltre a ricostruire più o meno le stesse cose, cosa fa? Attacca il Corriere della Sera. Cioè attacca il giornale a cui rilascia comunque oggi un'intervista. Perché sentite cosa dice a un certo punto Calderoli. È evidente che una maggioranza, questo lo dice a Repubblica, è evidente che una maggioranza che fa delle riforme che sembravano impensabili governerà per i prossimi 200 anni. L'atteggiamento dell'opposizione aiuta. L'unica cosa che sa fare è infilarsi tra noi e Berlusconi. In questo momento stanno solo sfruttando la situazione, così come i poteri forti impegnati in una manovra nella quale il Corriere della Sera sta ricoprendo una parte di spicco. Eccoli che tornano i poteri forti. Al che Repubblica, con Alberto D'Argenio, dice: mi scusi, questi poteri forti chi sarebbe? Non sono così ben definiti da poterli nominare nome e cognome. Diciamo che sono tutti coloro che pensano di essere superiori alla politica e per la prima volta vedono un governo che tocca i loro privilegi. Giudicano male la politica che decide senza il loro permesso, senza seguire le lobby, e il Corriere è il terminale di queste manovre. Quindi due volte accusa il Corriere. Per esempio, sono accuse pesanti, ministro. Per esempio, in Piemonte si mettono in discussione le elezioni dopo che la lista è stata accettata. Guardate che questa del Piemonte è una cosa che deflagrerà nei prossimi giorni, credo, tanto che oggi l'Unità appunto ci fa la copertina, noi ce ne siamo occupati settimana scorsa, e oggi il presidente del Piemonte Cota ha indetto una fiaccolata, una manifestazione questa sera proprio in previsione della decisione del TAR del 1° luglio. L'accusa è: da parte di chi ha perso c'erano delle firme, una serie di firme taroccate per la presentazione di alcuni candidati e che hanno portato molti voti, più dello scarto di 9.000 voti per il quale l'Abruzzo ha perso la regione. Quindi vedete, la politica si interroga ancora sul caso Brancher, mentre la politica internazionale è ovviamente tutta dedicata al G20, i grandi e l'aiuto alla ripresa, deficit dimezzati entro il 2013. In questi consessi in realtà non si capisce mai che cosa si sia deciso e che cosa invece si sia mancato come appuntamento. Il documento dei grandi prevede tre grandi punti. Intanto l'impegno a dimezzare il deficit da parte dei grandi entro il 2013. Il secondo è sulla questione della tassa sulle banche, questo era un punto importante. Bene, il documento finale lascia sostanzialmente libero ogni governo di decidere in autonomia sulla tassazione delle banche. Infine, i paesi del G20 hanno ribadito sul protezionismo la volontà di non cedere ad atteggiamenti protezionistici. Però ci si interroga appunto quando finiscono questi summit, ci si interroga: sono serviti, non sono serviti, hanno portato dei risultati oppure no? Con anche interviste. Per esempio, il Corriere intervista l'economista Jeffrey Sachs, uno degli economisti più famosi al mondo, che dice: ci vuole la tassa sulle transazioni finanziarie, quella che si chiamava la Tobin Tax, dal nome di James Tobin. Perché ci vuole, dice Sachs? Perché Occorre tassare il settore finanziario, che è relativamente sottotassato rispetto agli altri, il che favorisce la creazione di una fascia di speculazione fine a se stessa. In secondo luogo, un'imposta del genere ridurrebbe la povertà nel mondo. In terzo luogo, si può contribuire così a finanziare i beni pubblici e ridurre i deficit degli stati. Dunque, Jeffrey Sachs rilancia la Tobin Tax. Mentre invece su Repubblica l'economista Jean-Paul Fitoussi a pagina 2 fa un'intervista e dice: investimenti, opere pubbliche, non bisogna aver paura di spendere. Fitoussi sempre molto critico per esempio della rigidità monetaria. Chi ha vinto in questo consesso? Un vincitore inequivocabile c'è ed è la signora Merkel. La Germania ha celebrato il trionfo della sua ossessione per il rigore di bilancio. Non c'è altra preoccupazione se non ridurre il deficit. Ma non è detto che il mondo debba seguire l'ossessione di uno solo. Se tutti faranno come scritto, puntando dritti sul risanamento della finanza pubblica, il risultato sarà una gigantesca deflazione, ovvero l'azzeramento della domanda e con essa dell'occupazione, della crescita, del miglioramento delle condizioni di vita. È strano che la Germania non si renda conto che spingendo per questo impegno alla fine fa male a se stessa oltre che agli altri. Cosa doveva esserci in questo comunicato che non c'è? Risponde Fitoussi: precisi impegni per il risveglio della domanda sia pubblica che privata, investimenti, opere pubbliche, sostegni di qualsiasi tipo, a costo di allargare i tanto temuti disavanzi, perché al momento è drammatico e i bilanci pubblici servono a questo. Mentre molto molto critico è un altro economista, Giacomo Vaciago, intervistato sulla Stampa a pagina 5, dice: quali risultati? Commentiamo i risultati del G20. Quali risultati? L'unico effetto visibile è stata la devastazione di una bella città come Toronto. Per il resto il summit ha certificato che siamo diversi. Dunque Vaciago dice: l'unica cosa da notare sono stati gli scontri. Il problema è che ciascun paese prova a chiedere agli altri di fare ciò che in realtà serve solamente a lui, senza un vantaggio comune. Ognuno domanda senza dare niente in cambio. Ecco la verità. Come potrebbe funzionare invece meglio il G20? Ha senso se qualcuno massimizza il proprio interesse tenendo conto di quello che gli altri, una regola che dovrebbe essere seguita anche nell'Europa dei 27. Insomma, Vaciago dice: ci sono governi malati di provincialismo, ognuno chiede di massimizzare ciò che interessa a se stesso e invece non serve agli altri. Per chiudere questa cosa del G20, beh, trovate anche su tutti i giornali la grande curiosità su chi era quella bionda di 28 anni che ha accompagnato il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. A dire la verità, chi era ormai si è scoperto: Federica Gagliardi, 28 anni, dipendente della Regione Lazio, la così già definita da Repubblica la dama bianca del Premier al G8. Per la verità la Repubblica la rintraccia anche: pronto Federica, sì sono io, come mai è in Canada col Premier, sto facendo un'esperienza bellissima, ora non posso parlare, click, butta giù il telefono. A quel momento non risponde più, ovviamente. Repubblica dice: magari rischiava di dire qualcosa che poi sarebbe stato strumentalizzato. Ragazza di 28 anni proveniente da San Cesareo, paesone alle porte di Roma. Ha sempre sognato l'incontro che le cambiasse la vita, commenta una sua conoscente. Ora ce l'ha fatta, incredibile. E poi si raccolgono testimonianze alla Regione Lazio dove lavora. Una sempre in tiro, truccata e vestita come dovesse andare a ballare in Costa Smeralda, dice uno. Con una predilezione rintracciabile in labbra e décolleté per il chirurgo estetico, rivela un altro. Poi Mario May, consigliere comunale del PD, mi fu presentata nel 2006 da un amico avvocato che mi chiese di farla lavorare. Avevo bisogno di qualcuno che mi tenesse l'agenda, era molto appariscente. Mi disse pure che stava con un calciatore di Serie A. Dopo la vittoria l'assessore al commercio la prese nel suo staff. Poi c'è stata una candidatura con l'Italia dei Valori. Nel 2008 alle comunali ha raccattato 24 voti e ha interrotto ogni rapporto col partito, finché il marito di Maria Grazia Cucinotta, Giulio Violati, grande amico di Renata Polverini, l'ha introdotta nel team della candidata del PDL, facendola poi assumere in regione. C'è chi dice che Federica sia stata notata da Berlusconi in campagna elettorale. Vabbè, insomma, un po' tutta la sua storia. La polemica è: come fa ad essere in ferie visto che è assunta da giugno, da pochi giorni alla regione? Ecco allora che Salvatore Ronghi, segretario generale, capo della Dama Bionda, così la definisce Repubblica, spiega: Federica è in permesso non retribuito da venerdì, dovrebbe rientrare il 3 luglio. Ma lei sapeva che andava in Canada con Berlusconi? No, solo che andava a fare un'esperienza internazionale. Vabbè, insomma, Repubblica fa mezza pagina per cercare di capire chi è Federica Gagliardi, perché è lì e a che titolo, se in ferie, in permesso o in chissà cosa. In primo piano. Manovra apertura di 5 governatori del PDL. Questo titolo lo troviamo a pagina 5 del Corriere della Sera. Sapete che le regioni sono molto critiche nei confronti della manovra approntata dal governo. Però ora c'è un muro, una breccia, perché al 5 regioni, vale a dire Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Calabria, 5 governatori, tutti di centrodestra, hanno scritto a Tremonti dicendo: riapriamo il confronto, cioè apriamo, non siamo così critici. Tanto che il Corriere intervista chi? Roberto Formigoni, presidente della Lombardia, che è stato il primo, quello che ha definito il governo un padre sciamannato, che ha tolto alle regioni, creando anche molto scalpore, insomma, di tensione a livello della maggioranza. E Formigoni dice: sapevo dell'iniziativa di questi 5 governatori, sapevamo che questi colleghi avrebbero scritto al governo, non mi stupisce. Ma non si è rotto proprio nulla nel fronte compatto delle regioni. I sacrifici chiesti dal ministro Tremonti sono troppo sbilanciati su di noi. Poi, certo, le regioni non sono tutte uguali, c'è chi è virtuoso e c'è chi no. Ma, dice Formigoni, continueremo a fare questa battaglia. Il nostro fronte resta compatto. A proposito di federalismo, ci sono delle interessanti notizie oggi sui giornali, a cominciare dal Sole 24 Ore. Come detto, l'apertura, si va verso il federalismo, perché mercoledì, per esempio, in Parlamento verranno presentati i numeri della riforma e entro luglio verranno presentati 5 decreti di attuazione. Comuni e regioni sotto esame, oggi Gianni Trovati a pagina 3, spiega quali sono tutti i passaggi che porteranno al federalismo. In cantiere c'è anche la certificazione dei bilanci per superare l'inattendibilità dei dati. Perché? I dati di che cosa? I dati dei bilanci di comuni, province, degli enti locali. Pensate che tra 2 giorni appunto arriverà in Parlamento la relazione governativa sui numeri del federalismo fiscale, lo stato attuale dei conti locali, i risparmi possibili con il nuovo sistema, dunque i numeri più sensibili, no? Per scrivere tutta questa relazione i tecnici hanno dovuto passare al setaccio tutti i bilanci territoriali e hanno trovato, scrive Gianni Trovati, di tutto, ma cose incredibili. Per esempio, capita che le regioni scrivano somme superiori come trasferimenti agli enti locali, somme superiori a quelli che i bilanci dei comuni e province registrano in entrata. E come? Allora uno dei due, o dalle parte delle regioni o da parte degli enti più locali, comuni e province, insomma, mente o compie un errore contabile abbastanza grave. E insomma, comunque a pagina 3 ci sono tutti i passaggi di quello che sono i punti che porteranno poi al federalismo e che porteranno soprattutto mercoledì alla relazione sui numeri del progetto, perché poi lì da sempre si dice: ma il federalismo conviene o non conviene, costo o non costa, ci fa risparmiare o non ci fa risparmiare. Certo, mercoledì ci sarà un punto importante per capire e ragionare su numeri un po' più precisi. A proposito di federalismo, su tutti i giornali oggi troviamo quello che è un punto importante di del passaggio del federalismo, cosiddetto il federalismo demaniale, perché entro luglio ci sarà l'Agenzia del Demanio che farà l'elenco dettagliato e ufficiale completo di tutti i beni dello Stato che verranno trasferiti agli enti locali per poi essere venduti questi beni per fare cassa. Per il momento è stata presentata una prima lista che vale oltre 3 miliardi di euro. Si tratta di 9.000 immobili, chilometri di spiagge, centinaia di miniere, fiumi, laghi, in questo caso fiumi, laghi solo in concessione. Ma ci sono pezzi pregiati come la cittadella di Alessandria, il palazzo dei Normanni a Palermo, la rocca di Scandiano, il castello di Vigevano. E poi pezzi delle Dolomiti, il Monte Cristallo, la Croda del Becco a Cortina, alcuni vecchi immobili di Porta Portese, la Facoltà di Ingegneria della Sapienza, il nuovo cinema Sacher di Nanni Moretti, abbiamo sentito anche nel nostro GR, stimato 4,5 milioni di euro, ma anche ex caserme come quella di Santo Stefano vicino a Ventotene, il Museo di Villa Giulia a Roma, l'ex Forte Sant'Erasmo a Venezia, il Faro di Ponza. Insomma, tutte queste verranno trasferite agli enti locali per poi essere venduti, per fare cassa. Allora, c'è chi dice che è una grande speculazione edilizia, come il Verde Bonelli. C'è chi dice che invece è qualcosa di positivo. Qualcuno nel PD dice estremismo, addirittura le Dolomiti, cioè pezzi di Dolomiti si vendono. Tanto che la Stampa si chiede proprio a pagina 21, si possono vendere le Dolomiti? Un'intera pagina. Il Demanio prepara la lista dei beni alienabili dello Stato, isole, fari, caserme, musei e le montagne più belle del mondo saranno solo trasferite, cioè non è che saranno vendute. Però certo è interessante questo dell'elenco dei beni demaniali. Arriviamo alle altre segnalazioni molto interessanti. C'è un'intervista che il Corriere della Sera fa a Rino Formica, ex ministro, 83enne, su Ustica. Ieri era il trentennale della tragedia di Ustica, 81 vittime della strage, una strage che non ha ancora avuto una verità e probabilmente chissà se mai ce l'avrà, anche se la presidente delle vittime, Daria Bonfietti, dice la verità è certificata, e cioè quell'aereo fu abbattuto. Per noi vittime questa è la verità, perché il giudice Priore anni fa stabilì così. E Rino Formica lo conferma, cioè dice: Ustica, un missile sull'aereo, me lo disse subito un generale. Intanto provo vergogna a parlarne, dopo 30 anni dire alle famiglie che c'è ancora da scavare sulla verità è per il paese un segno di impotenza o ipocrisia. Poi ricorda quello che gli disse il generale Rana, che disse la tesi del generale Rana proprio di un missile. E poi dice: ma scusi, allora lei che idea si è fatto? Chi buttò giù quel 19? Sto alle osservazioni di Cossiga, ha detto i francesi. Così Rino Formica, che poi dice: tutti vanno da Gheddafi, ma nessuno si fa dire come andò, perché la teoria era proprio questa: quel missile in realtà era destinato ad abbattere l'aereo su cui viaggiava Gheddafi, e in realtà ci fu questo tragico errore. Questa è la teoria del missile. Le segnalazioni conclusive. Che ti ha combinato Mario Balotelli? Forse l'avete sentito nel GR, finta pistola, spari in piazza, la bravata di Balotelli. C'è ovunque, un'intera pagina sulla Gazzetta, qui la leggo dal Corriere, una fosa domenica milanese, c'è una signora che si affaccia alla finestra, vede quattro ragazzini intorno a un macchinone, sente degli spari, chiama il 113 dicendo: qua c'è qualcuno che spara in strada, arriva la polizia, è Mario Balotelli che ha una pistola giocattolo, ha sparato qualche colpo e definisce tutto: sono un pirla, è una pirlata. Dà agli agenti il tutto, la pistola, gli agenti la controllano, è di quelle col tappino rosso sul proprio giocattolo, e gliela restituisce, dice: non c'è motivo per sequestrarla, chiedo scusa, scusate davvero, è stata una ragazzata, non volevamo spaventare nessuno né creare problemi, una ragazzata. Sta di fatto che domani Balotelli ha l'esame di maturità, gli orali. E vabbè, insomma, la bravata di Balotelli. Infine, arriva, questo lo trovate su tutti i giornali, un test, care donne, arriva dall'Università di Teheran, messo a punto per svelare quando finisce la fertilità. Secondo alcuni studi da approfondire, per la verità, si potrà calcolare anche per una ragazza di 20 anni l'età in cui arriverà la menopausa. Insomma, per qualche donna è importante, una scelta importante per dire: così pianifico quando posso avere dei figli. Per altre è dire: ma no, ma insomma devo anche scoprire fino a che sarò fertile e poi no. Le donne e l'orologio biologico senza segreti. Il Corriere della Sera vi dedica un'intera pagina, ma anche sul secolo XIX, sulla Stampa. Insomma, questo tema è molto interessante. Care donne, vorreste sapere fino a che età siete fertili? Ora vi lascio, c'è il GR, votate il sondaggio: troppi stranieri nel nostro campionato, per questo perdiamo i mondiali. Siamo alle 8:16 minuti nuovamente in diretta. Eccoci qua con 24 Mattino con Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Eccoci Deborah. Mi piace quando fai l'annunciatore della mia presenza. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come è iniziata la settimana? Benissimo. Ma è divertente la segna stampa ricca stamattina, eh? Tra le cose del calcio, no, che ne so. Balotelli. Parliamo di cibo, va stamattina. Toh, dai, ti ho detto la battuta, un tanto per cambiare. Esatto, sì, classico. Però quello sanissimo, frutta e verdura. Allora, vabbè, partiamo da questo rapporto che nei mesi passati ha fatto tanto parlare di sé perché ha fatto emergere molti dati interessanti. Quasi il 37% degli italiani, quasi 4 italiani su 10, che cosa dice? Dice che vorrebbe mangiare più sano, ma non ci riesce. Questo lo stabilisce questo rapporto Censis Coldiretti sulle abitudini alimentari del nostro paese, riferendosi al 2009. C'è anche un altro dato interessante: circa un quarto degli italiani sostiene che mangerebbe più frutta se costasse di meno. Allora, noi abbiamo parlato di spesa a chilometro zero già in altre circostanze, in altre trasmissioni, in altri appuntamenti. Spicca in questa ricerca che abbiamo citato la crescita degli acquisti diretti dal produttore, inclusi i mercati del contadino, che sono ormai molto apprezzati come una soluzione che risponde ad alcune esigenze forti. Intanto la genuinità del prodotto, la sicurezza dell'origine del prodotto e il prezzo conveniente. Su questo punto ci sarebbe un po' da discutere perché per la verità non è sempre tanto particolarmente competitivo con il supermercato. Allora, questa mattina scopriamo un'ulteriore possibilità per comprare direttamente dall'agricoltore, e cioè farlo via internet con un semplice click del nostro mouse, comodamente seduti in poltrona. Su questa realtà, in questa realtà ha indagato un collaboratore del Sole 24 Ore, un collega, Andrea Paternostro, che saluto, ringrazio di essere stamattina con noi. Andrea, ben svegliato intanto. Buongiorno. Allora, è una novità questa, dopo i farmer market, cioè comprare frutta e verdura, ovviamente rivolgendosi a delle realtà agricole consolidate, ma farlo via internet, oppure è, come dire, un fenomeno recente per quello che riguarda il nostro paese, Andrea? Beh, è una tendenza che sicuramente sta mettendo piede, come molti fenomeni legati ai servizi online, quindi senz'altro è in aumento. Come segnala Coldiretti, c'è appunto il bisogno da parte dei consumatori di saltare degli intermediari, di accorciare la filiera e di fare degli acquisti più convenienti. Su questo punto, come hai detto tu, quello del risparmio effettivo, bisogna in realtà tenere gli occhi sempre ben aperti. Consigliamo però anche di tenere bene aperta l'attenzione sulla qualità dei prodotti che si ricevono a casa, quindi senz'altro si deve bilanciare la possibilità di fare un acquisto comodo, come permesso da internet, con il fatto di verificare sempre se è possibile effettivamente avere dei risparmi. E i vantaggi sono senz'altro la freschezza e la stagionalità dei prodotti, perché tipicamente vengono consegnate delle cassettine per il consumo di poche persone, per le esigenze di una, due, tre persone, a seconda appunto delle proprie esigenze. Necessità familiare, certo. Esatto, e volendo c'è anche la possibilità di ricevere in ufficio. So, dalle verifiche che abbiamo fatto, so che questa modalità è particolarmente apprezzata. Ah, addirittura, quindi ci si organizza magari tra colleghi e si fa pervenire, insomma, questa spesa settimanale fatta di frutta e verdura in modo tale da evitare anche così la coda al supermercato, che fa perdere un po' di tempo. Esatto, in questo momento, in questa opzione magari c'è più l'aspetto della socialità, della pausa pranzo, altre cose prevalgono rispetto alla modalità invece di consumo familiare. Per quanto riguarda quest'ultima, diciamo, controllare sempre bene la merce, tutto quello che arriva nella cassettina, per vedere se tutto è a posto, settimana per settimana, anche quando si fa un abbonamento, una sorta di quota mensile per cui si garantisce al produttore una certa stabilità nelle proprie ordinazioni. È vero, perché certe aziende si organizzano anche in questa maniera. Andrea, come facciamo a scoprire questi, chiamiamoli così, non vogliamo ovviamente come dire, dare una definizione sbagliata, speriamo che nessuno si offenda, ma questi fruttivendoli online, attraverso quali canali si promuovono? Ci puoi dare qualche indicazione pratica per andarli a ricercare proprio sulla rete? Sulle 24 ore di stamattina diamo una serie di indirizzi che io ho raccolto facendo appunto delle ricerche, semplicemente partendo come può fare qualsiasi consumatore da Google, appunto, perché sostanzialmente si tratta dei siti di nicchia, con poco traffico, non esiste un sito che funge da collettore, ma molto funziona tramite passaparola. Ah, sono sicura che con questo suggerimento stamattina qualcuno si avventurerà anche ad organizzare magari il portale dei siti dei fruttivendoli online. È possibile, perché effettivamente, come moltissimi fenomeni del consumo online, c'è molto il ruolo del passaparola e dei consigli dati singolarmente, volta per volta, nei vari forum di discussione, nei vari posti dove la gente può organizzarsi per lasciare commenti, per dare la propria opinione. Quindi c'è assolutamente un fenomeno 2.0 da questo punto di vista. La frutta e verdura 2.0 passano anche tramite il commento positivo o negativo che il consumatore, dopo l'acquisto, dopo la ricezione della merce una, due o più volte, è disposto o meno a lasciare su un forum, su un sito, certo, dove si parla proprio di quello. In alcuni casi, anzi in moltissimi casi posso dire, perché è chiaramente un problema anche di zona, quindi di copertura della propria abitazione da parte di un servizio di questo tipo. E infatti, perché questo va precisato, perché adesso non è che dobbiamo collegarci ad un sito, ma se abitiamo a Milano e ricerchiamo magari un'azienda agricola che opera in Sicilia, è molto difficile che ci faccia, Andrea, questo dobbiamo precisarlo molto bene, la consegna a casa. Esatto, bisogna tenere in conto anche questo, quindi quali possono essere i tempi effettivi di consegna, i costi, se vi sono dei costi di spedizione aggiuntivi. Solitamente appunto è così, anche se è impossibile dare uno standard, perché chiaramente quando tutto passa tramite piccoli produttori si va un po' così, secondo formule variabili, e infatti, da un commerciante a un altro. Senti, insomma, Andrea, rispetto a quella che è stata la tua indagine per questo articolo del Sole 24 Ore di questa mattina, che si intitola "Freschi dai campi, con un click possibile ordinare via internet prodotti di stagione", qual è la modalità più diffusa di acquisto della merce? Gli clienti ormai di questi canali si abbonano per esempio alle aziende, oppure fanno così, passami il termine, uno zapping fra un'azienda ed un'altra, e quindi magari provano più strutture, più aziende agricole? Beh, sostanzialmente gli utenti attivi della rete tendono a fare uno zapping, ovvero si può anche leggere facilmente in giro, ma poi sono loro stessi a confermare, una volta interpellati, che se qualcuno in effetti non è contento delle prime spedizioni, basta ben poco per non garantirsi un cliente, per farlo passare a qualche altro appunto fornitore. Quindi chi fa questo servizio deve assolutamente già dalle prime cassettine non far arrivare nulla di strano, perché a qualcuno è capitato di ricevere prodotti non perfetti, e questo viene segnalato pubblicamente nei forum, e come avviene da anni per l'elettronica di consumo e tantissimi altri settori appunto del consumo, i consumatori sono molto più propensi chiaramente a segnalare pubblicamente ciò che non va rispetto ad una virtù, certo, rispetto a quanto proattivamente possono dedicarsi. Io l'ho notato per esempio sui siti dove è possibile prenotare gli alberghi, per esempio, oppure viaggi, ovviamente, certo, ci sono alberghi suggeriti o meno. Andrea, noi stiamo quasi concludendo, confessaci, hai fatto la prova con qualche sito? Sì, devo dire che è stato possibile provare qualcosa. Il livello di soddisfazione, ecco così, nei limiti delle proprie aspettative, diciamo abbastanza elevato, però ecco, invito sempre a fare un bilancio tra le proprie aspettative ed esigenze, anche a livello di quantità. Ma tu ti sei dichiarato fin dall'inizio che eri un giornalista che stava facendo un'inchiesta? No, ovviamente un... Ecco, chiaramente quello potrebbe essere un po' come funziona in certi casi con altri tipi di recensioni, non sempre in ambito enogastronomico. Bisogna viaggiare in incognito, naturalmente, altrimenti le inchieste non vengono bene. Andrea, io ti ringrazio per essere stato con noi questa mattina, ti auguro buon lavoro e ci risentiamo magari presto per altre delle tue inchieste, appunto, internet. Buona giornata. Grazie a voi, buona trasmissione. Caro Alessandro, oggi con il Sole 24 Ore esce una nuova guida pratica dedicata agli studi di settore, quindi piccoli professionisti, piccoli imprenditori, tutte le istruzioni per l'uso sulle novità di quest'anno. Sono le 8:31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, e allora parliamo nel nostro sondaggio di oggi del disastro della nazionale italiana ai mondiali di calcio. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Per molti il motivo di questo disastro è: ci sono troppi stranieri, calciatori stranieri nel campionato italiano, e quindi per forza i nostri giovani calciatori italiani sono impossibilitati ad emergere, e poi facciamo queste figuracce mondiali. Che ne pensate? Siete d'accordo? Dovete votare su radio24.it. Bisogna dire che per ora siete già in moltissimi a votare, il 75% non la pensa così, non è colpa di questo. Intanto voglio salutare Oliviero Bea. Buongiorno, ben ritrovato Bea. Buongiorno, buongiorno. Giornalista del Fatto, poi anche scrittore. Voglio ricordare in libreria con Chiare Lettere, con Dopo di lui, Il diluvio, l'ultima fatica letteraria di Bea. Saluto anche Massimo Bitonci, onorevole della Lega. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E anche sindaco di Cittadella. So che è anche maratoneta Bitonci, così? Sì, ho fatto una 12 maratoneta in passato, adesso E tifoso anche di calcio. È un'attività un po' difficile facendo il parlamentare, anche il sindaco di Cittadella. E anche tifoso di calcio? Tifoso di calcio, ricordiamo chi ci ascolta che Cittadella è una, gioca, milita in Serie B, nonostante il nostro sia un paese di 20.000 abitanti, e quest'anno insomma per poco non andavamo in Serie A. E poi saluto anche Paolo Cento, anche lui politico, buongiorno di Sinistra e Libertà, buongiorno Cento. È gran buongiorno tifoso a lei e a tutti i radioascoltatori. Gran tifoso anche lui della Roma, credo, no? Cento. Assolutamente sì. Senta, beh, allora ce la dobbiamo prendere con sti stranieri, questi mannaggia gli stranieri, dopo il tracollo della Corea, cioè quando fummo eliminati dalla Corea del Nord ci fu il blocco degli stranieri, ora magari è più difficile con l'Unione Europea, però dovremmo pensare a quello? Ma gli stranieri sono il sintomo, non la malattia, perché appunto, come lei ha già anticipato, in termini di come dire, burocrazia europea, limitare gli stranieri sarebbe violare all'interno del, per esempio, del mercato del lavoro, delle norme. Il problema è che da anni, anche durante i mondiali del 2006 vinti, che sono stati, come dire, l'ultimo momento di un calcio che era già gravemente ammalato, dicevo già da prima, ma oggi lo si vede con evidenza, è tutto il movimento calcistico italiano che fa acqua, che si perde i pezzi, non ci sono vivai, si preferisce trafficare con i giocatori stranieri al di là della loro qualità, spesso discutibile, perché ci sono tangenti, fondi neri e via dicendo, e poi perché sembra che costi meno che allevarsi i giocatori italiani, cosa tremenda anche sul piano sociale, perché socialmente un ragazzino di 8, 9, 10 anni i cui genitori addirittura investono, cosa discutibile per carità, investono sul suo futuro di campione, si ritrova a 17, 18 anni chiuso da un ragazzino magari di 2 anni più giovane, preso, arretata, sciabica all'estero, come fanno spesso delle società, fortunatamente non in Cittadella, e così si ritrova con giocatori stranieri, giocatori italiani sul groppone, che non sanno che fare già a 18, 19 anni, 20 anni, venendo dalle primavera delle squadre più importanti, e la conseguenza di tutto ciò è un calcio malato, bancarottiere, che produce questa nazionale. Ma questo è interessante, ma perché costa di più, voglio dire, comprare, che ne so, a 7, 8, magari 5 milioni di euro un sedicenne dal Brasile o dal Ghana, invece che investire su un ragazzo di 7-8. No, più che altro dal punto di vista della società o dei procuratori che lo fanno, c'è un sottomercato, cioè noi il mercato evidente è quel mercato emerso, poi c'è un sottomercato che prevede tangenti, soldi, una serie di porcate. Il problema è che invece investire in modo chiaro sui giovani, sui vivai, e con un reclutamento di base più serio, che poi è per analogia lo stesso discorso si dovrebbe fare su tutti gli sport, con lo sport nella scuola, significherebbe essere un paese serio. Noi lo siamo? Questa è la domanda forse. Onorevole Bitonci, al Cittadella come siete messi a stranieri? Credo poco, molto, molti... Due in realtà, perché c'è un ragazzo che è un italo argentino, quindi un oriundo, e dopo un ragazzo poi brasiliano. Però diciamo in Serie B sono meno, insomma il problema è soprattutto in Serie A. Anche in Serie B è un bel campionato proprio per questo, perché ci sono moltissimi giocatori, anche molti molto giovani, che vengono dai vivai e vengono sicuramente valorizzati. In effetti poi il Cittadella quest'anno ha avuto anche dei giocatori che insomma che hanno ben figurato, come ricordo Ardemagni, che il prossimo anno andrà a giocare in una squadra di Serie A. Senta, ma perché la Lega se l'è presa così tanto? È una sparata un po' leghista, oppure perché ve la siete presa con tutti questi stranieri? Lei in Serie A a chi guarda? L'Inter, il Milan, la Juve, ha una simpatia in Serie A? Beh, io sono un ex rugbista, quindi guardo il calcio sempre con un occhio un po' particolare, perché chi ha giocato a rugby, ecco, in squadre dove alla fine ci si lavava perfino le mute, vede il calcio come uno sport molto malato, come si ricordava prima. Questa è un po' la realtà, e questo è il sentimento che porta avanti anche la Lega Nord. È comprensibile quello che dice Calderoli, ma le stesse battute di Bossi, così, che raccolgono il malessere collettivo di uno sport, come dico sempre, che non è più sport, è solamente diventato uno spettacolo. Ma che c'entrano gli stranieri? Più che c'entrano i troppi stranieri, voglio dire, questo anche troppi stranieri, perché è conveniente, come dicevo prima, acquistare un giovane. Magari per non dico 4-5 milioni di euro, come si è detto prima, si pagano molto molto meno, purtroppo, perché questa è la realtà. Quando si prende un giovane dal Brasile o dal Nord Africa o dall'Argentina, si paga molto meno, e quindi costa meno acquistarlo che allevarlo con un vivaio. Dopotutto i vivai costano, e le squadre preferiscono piuttosto fare questo, piuttosto che allevare i ragazzi e cercare di farli giocare nei vivai. Questo non vi sta bene. So che Paolo Cento si è molto adombrato con la Lega. Perché ha detto la Lega stiano zitti? Innanzitutto voglio fare i complimenti al Cittadella, canto di equivoci, perché quest'anno è stata una delle cose nobili del calcio italiano. No, non mi sono adombrato con la Lega per il discorso degli stranieri, ma perché in tutti questi mesi, diciamo, di mondiali, la Lega anche del calcio ne ha fatto un'occasione a volte di strumentalizzazione politica anti-italiana, e francamente non ce n'era bisogno. Che poi il calcio abbia bisogno di una riforma radicale, credo che è sotto gli occhi di tutti, che la riduzione degli stranieri rischia di essere una scorciatoia in questo dibattito, perché il tema sono le società di calcio, il tema è la gestione fatta dai vertici del calcio nazionale, il tema è anche della politica, che quando interviene con delle leggi sul calcio spesso fa degli strafalcioni. Penso alla quotazione in borsa delle società di calcio avvenuta da qualche anno. Allora gli stranieri sono una parte del problema. Non si possono cancellare, anche fortunatamente, perché vi è la libera circolazione dei lavoratori stranieri nel nostro paese. Il problema è che le società di calcio dovrebbero avere più coraggio nell'investire nei propri giovani, e soprattutto rimodellare i propri bilanci, perché se non si fa questo, credo che continuiamo a parlare di un tema senza offrire soluzioni. Allora, questo poi la nazionale italiana ha, anche con tanti stranieri nel nostro campionato, doveva battere la Slovacchia. Sì, vabbè, ma quello sì, cioè, che pensare... No, perché sennò rischiamo anche di fornire una giustificazione a un fallimento che ha dei nomi e cognomi. No, ma questo è chiaro, cioè, voglio dire, non abbiamo battuto la Nuova Zelanda, ecco, ricordiamoci sempre questo. Io voglio sentire Giorgio dalla provincia di Lodi e Stanislao da Udine. Giorgio, Lodi, buongiorno, che ne pensa lei? Buongiorno, mi sentite? Benissimo, dica. No, dicevo questo, io non sono molto d'accordo sulla questione che è stata sottoposta, cioè vale a dire pochi giovani da noi. Cioè, io ritengo questo, 4 anni fa ne abbiamo vinto nonostante la situazione fosse la medesima. Cioè, avevamo comunque stranieri che giocavano nel campionato italiano e noi abbiamo vinto il campionato mondiale. Inoltre io ritengo che, visto che tipo Brasile, Argentina, squadre molto forti, molto agguerrite, hanno comunque dei giocatori che giocano dappertutto tranne che nelle loro città, nei loro paesi di origine, eppure riescono benissimo a vincere. Io credo che sia un problema di sofferenza, cioè i nostri giovani non hanno più voglia di soffrire come ce l'hanno magari questi paesi emergenti, che invece forse anche perché la vita là è più dura hanno più voglia di fare sacrifici. Va bene, non hanno voglia di soffrire. Grazie Giorgio. Voglio andare a Udine da Stanislao. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, complimenti della trasmissione. Sì. Niente, io ho giocato a calcio, ok? Io sono napoletano. Ho giocato a calcio fino in Serie C2. Sono stato a Battivaglia, a Cala. Però il discorso qual è? La federazione non hanno voglia di investire, bisogna rinnovarsi. I giovani scappano. Quanti giovani abbiamo in Inghilterra? Guardi la Germania, sapete quanti elementi erano i rischi rosa ieri? 4 elementi. Il resto si chiamano Mehmet, Özil, perché non vogliono investire. Bisogna rinnovarsi e investire. Il settore giovanile fa piangere, si fidi, fa piangere. Lo so, fa piangere, questo è il problema, insomma, che diceva anche Oliviero Bea. Bea, tra l'altro, lei in apertura ha fatto anche un paragone, lo stanno facendo in molti. Secondo me non è un po' azzardato il paragone tra il tracollo italiano e qual è la situazione del nostro paese. Lei dice: siamo un paese forse che sta andando bene. La nazionale è un po' lo specchio del paese. Perché voler fare questo paragone tra una cosa che rimane un'esperienza sportiva, calcistica, e il nostro paese? Dunque, naturalmente preso alla lettera e in modo, come dire, troppo scientifico, è un paragone forzato. Invece se ha un valore, questo valore va cercato, io l'ho scritto ripetutamente sul Fatto, lo dicevo prima, va cercato in una mentalità italiana, che è del paese per tanti versi e della nazionale come espressione del paese per altri versi, come si è visto, che è guasta. In che senso è guasta? Questo è un paese che non seleziona i migliori, è un paese che non investe nella ricerca, e già qui abbiamo due paragoni: la meritocrazia all'interno del gruppo della nazionale del calcio, e spesso la meritocrazia non c'è nemmeno nel calcio, e poi la mancanza di investimenti, è stato detto da tutti, nel settore giovanile, cioè nel vivaio, quello che è oggettivamente il futuro del paese. Il futuro va collegato con la giovane età, per forza, per necessità. Quindi questi sono già due primi elementi. Poi c'è una formazione lobbistica, come si è sempre detto, familistico-morale, tendente al mafioso nelle varie situazioni italiane, anche nel calcio, c'è una mafia anche nel calcio, fra virgolette o senza virgolette certe volte, e tutto questo avvicina tantissimo il calcio, la nazionale italiana, al paese. Io mi picco di precisare che non è un problema di destra e sinistra, perché di solito questo altro elemento di analisi e di associazione di idee, questo è un paese tifoso che tifa per la destra e per la sinistra, sì, esattamente come tifa nel calcio, quindi altra malattia generale, perché finché si tifa quei 90 minuti a vedere una partita, un conto, quando la mentalità è tifosa dalla mattina alla sera per tutta la settimana in tutti i campi, e beh, c'è qualcosa di fortemente sbagliato. Quindi forse il riferimento paese nazionale non è poi così lontano dalla realtà. So, onorevole Bitonci, lei questo segue Oliviero Bea in questo accostamento che fa nazionale paese? Non vedo una sinergia politica e lo sport, il calcio, almeno. No, però un certo modo di vedere, non so, per esempio, non esiste meritocrazia nel nostro paese, su questo possiamo essere d'accordo, no? Esiste. Questo sicuramente si è visto, cioè, anche la nazionale come specchio di un tirare la lista della nazionale, che probabilmente non sono andati i migliori giocatori a giocare il mondiale, questo ormai è estremamente evidente. Anche io però vorrei ritornare un po' a quello che è un po' la malattia del nostro calcio, che è la perdita anche dei valori sportivi, che per fortuna in altri sport ancora rimangono. Perché se noi vogliamo, faccio un esempio, se il simbolo della nostra nazionale doveva essere per esempio Balotelli, no? Balotelli, che ieri, ricordo, si è divertito a sparare con una pistola finta con una scacciacani, sì, e dopo è stato fermato anche dalla polizia, segnalato e tutto. Ha dichiarato: sono un pirla, ho fatto una pirlata, ha detto. Sì, proprio, è la parola giusta, direi, ma è anche peggio, perché quando le persone sono ragazzi così importanti, che hanno anche un ruolo di simbolo per i nostri giovani, per la società, quando fanno queste cose, fanno fanno veramente dei danni incredibili. Ma come si dice, Balotelli è uno di quelli che si dice doveva essere portato, è proprio quello che Lippi ha sbagliato a lasciare a casa, è la nuova, è il futuro, insomma, dell'Italia. Lei ce lo stronca così subito. Beh, mi ha dato dimostrazione in questi anni, veramente, a parte il gesto sportivo, ma di una mancanza proprio dei minimi valori sportivi. Quando si prende una maglia la si butta per terra, sì. Quando si scorazza in quel modo di notte a sparare con la scacciacani, o se ne combina uno ogni giorno, cioè alla fine quando una persona ha un ruolo importante nella società deve rendersi conto che è un faro per i nostri giovani. Insomma, se gli italiani della nazionale non vanno bene, le nuove leve, dice, almeno a giudicare da Balotelli, non promettono altrettanto. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, Paolo Cento, le dà fastidio pensare che su 32 giocatori della rosa dell'Inter, che quest'anno ha vinto tutto, ricordiamo, 23 siano stranieri? O meglio, le fa dire qualcosa, come dire, insomma, non è una vittoria di una squadra italiana, oppure il calcio moderno va verso questi orizzonti? Dica quello che vuole dell'Inter, tanto io sono del Milan, lei della Roma, no, vada pure pesante. Io credo che è una... Parlare degli stranieri significa nascondere la crisi vera del calcio italiano. Dopodiché i presidenti e le società di calcio, dentro a una riforma del pallone che sia seria, devono anche autoregolamentarsi. Non c'è dubbio che non può suscitare perplessità avere una squadra che gioca il campionato italiano e che limita all'inessenziale i propri calciatori stranieri. Detto questo, però, l'Inter aveva Balotelli, di cui si può discutere molto dei suoi comportamenti in campo e fuori, ma dal punto di vista tecnico Balotelli non c'è dubbio che meritava la nazionale. Io credo che le società di calcio dovrebbero darsi un codice di autoregolamentazione, ma non tanto per limitare gli stranieri, ma tanto per avere una sorta di quota obbligatoria per lanciare giovani che provengono dal vivaio. Se non si dà un incentivo in questa direzione, io credo che di delusioni come quelle vissute in Sudafrica ne avremo altri nei prossimi anni. Io cito un esempio di un calciatore, Okaka, che nella Roma non ha trovato spazio e è dovuto andare a giocare in Inghilterra. Cito lui perché conosco da vicino. Okaka è un giocatore che invece viene dal vivaio della Roma e meriterebbe, e la Roma dovrebbe essere incentivata a tenerlo a casa piuttosto che mandarlo. Sì, ma su questo non c'è meritocrazia. Basta vedere il Barcellona, quando sono un po' in difficoltà prendono dei sedicenni, diciassettenni, li crescono e li buttano in campo anche nelle partite importanti. Noi li prendiamo, se sbagliano due partite li mettiamo davanti dei campioni strapagati dall'estero, magari anche 30 anni, 32 anni, e questi vanno a giocare in campionati stranieri, insomma, alla fine. Italo dalla provincia di Chieti, è giusto? Italo? Sì. Buongiorno. Dica. Io avrei un'idea, dato che possono fermare l'entrata dei giocatori stranieri, perché non si forma una nazionale a parte come servizio militare? Volontari. Che vuol dire una nazionale a parte? Una spieghi nazionale, un allenatore che allena una nazionale, solamente una nazionale. Che vuol dire? Sai che non la capisco. No, come che non la capisco? Una nazionale di soli italiani. Cioè ci vuole. E perché la nazionale, scusi, la nazionale italiana di chi è formata? La nazionale. Non l'ha capito. La nazionale italiana da chi è formata? Da stranieri? No, da italiani? No, da italiani, però gli italiani che non hanno mai un ruolo. Come quelle che hanno gli stranieri importati. Non si riesce a formare la nazionale perché sono troppi stranieri, allora facciamo la nazionale che lavora l'allenatore per tutto l'anno, solo con la nazionale di giocatori italiani. Cioè lei dice adesso l'ho capita. Cioè lei dice formiamo una nazionale, ma questi non giocano nelle squadre, giocano solo, cioè è la squadra della nazionale. E insomma, mi sembra un'idea un po' bizzarra, cioè non giocano solo nella nazionale. E con chi giocano durante l'anno? Non fanno solo amichevoli, insomma, dei professionisti di gran lusso. Che dobbiamo fare? Senta, Bea, tutti questi politici che fanno dichiarazioni, vabbè, è normale, durante il mondiale ognuno sfrutta anche a suo... A lei dà fastidio? È tutto normale? È giusto che i politici anche sfruttino il calcio per dichiarazioni, far passare dei propri messaggi oppure no? Ma sa, il termine giusto e ingiusto credo che sia scomparso dall'orizzonte delle valutazioni e del merito. Diciamo che succede sul piano della comunicazione, il calcio è un veicolo straordinario e anche per questo forse ha ragione il presidente del Cittadella, non ci si deve dimenticare mai, e loro se lo dimenticano troppo spesso, che svolgono un ruolo anche di esempio, di cattivi esempi, di emulazione, quindi voglio dire le responsabilità di un Balotelli che è scemo per certi versi, ma rappresenta, oltre che essere un gran giocatore, rappresenta in un certo senso la metafora letterale dell'integrazione di un giovane in questo paese, quindi dovrebbe saperlo, solo che non lo sa ed è responsabilizzato, è tutto un mondo deresponsabilizzato. Detto questo, di fondo c'è una responsabilità della politica che va oltre la strumentalizzazione occasionale e vantaggiosa. Che poi in tutti i sensi, da una parte e dall'altra, perché ieri il neo ministro Brancher ha detto se la prendono con me, e invece di parlare della nazionale, Se non fosse grave, se non ci fosse un vuoto di politica in questo paese occupato dagli affari, come io scrivo spesso, forse sarebbe ridicolo. Il problema di fondo è che c'è una politica, e una politica sportiva che dipende dalla politica, nel senso complessivo del termine, che è scadente. Adesso per esempio il minimo era che la politica sportiva rappresentata nel caso del calcio, la Federcalcio, via dicendo, prendesse e andasse a casa. Era tanto strano che andasse a casa un presidente federale? Era tanto, mi pare di no, sarebbe stato un segno, cioè, vabbè, abbiamo sbagliato tutto sommato con Lippi, con la squadra, con la cosa, abbiamo tradito le aspettative di un paese che già in crisi si aspettava, come tutti sappiamo, di vivere un mese di distrazione di massa, come si dice, abbiamo tradito le attese a casa, perché è una tragedia che vada a casa. In Italia sì. Sì, ecco, sì. È una tragedia per chi va a casa, insomma, per chi si deve alzare dalla poltrona, certo che è una tragedia. Onorevole Bitonci, a lei darebbe fastidio un Cittadella con 10 stranieri? Beh, direi molto, ma moltissimo, cioè, ma penso anche gli stessi cittadellesi che sono dei tifosi appassionati. Si pensi che quando abbiamo perso la partita in casa con il Brescia, che ci ha precluso l'accesso in Serie A, i tifosi hanno contestato la squadra, sono andati tutti verso l'uscita e hanno applaudito la squadra, cioè è un caso più unico. Ha fatto un campionato, non si aspettava ma comunque nonostante questa speranza che c'era di poter fare almeno un anno in Serie A, i tifosi comunque hanno applaudito la squadra, abbiamo fatto una grande festa come se l'avessimo poi il campionato, e questi poi devono essere i valori importanti dello sport che abbiamo perso nel tempo, purtroppo. Sentiamo ancora Alfonso da Treviso, con cui concludiamo. Alfonso, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi fatto partecipare. Allora, semplicemente queste due considerazioni. Ma io francamente trovo a volte un po' provinciali certi tipi di riflessioni, perché io sono un insegnante, ho tanti ragazzi stranieri a scuola, bene, il 70% di questi fa parte di gruppi e associazioni sportive con ottimi risultati, sia non so nel calcio come in atletica o nella pallavolo eccetera, e sono tutti gli effetti cittadini italiani, perché l'80% di questi ormai è nato in Italia. E va bene, questi ecco, sì, potranno giocare nella nazionale. No, ma voglio dire, la mia riflessione è questa, trovo veramente a volte sconcertante per certi versi questo tipo di ragionamento, per cui bisognerebbe mettere delle quote, dei limiti eccetera, no? Da questo punto di vista qua. Questo da una parte trovo sia un ragionamento un po' provinciale, dall'altra, e chiudo con questo, credo anche che in Italia spesso ci sia un gusto per le minestre riscaldate, voglio dire, trovo che ci sia questa poca volontà di lasciare spazio ai giovani veramente, parlo per esempio anche di Lippi, Allora, perché un allenatore che ha già avuto, diciamo così, successo e non lasciare spazio? Ma Alfonso, questo è un po', come dire, sono le polemiche appunto che girano sui giornali da giorni, cioè perché è stato richiamato Lippi, perché lui ha chiamato alcuni vecchi giocatori invece di puntare nuovi, insomma è quello di cui stiamo discutendo. Con lei concludo e la ringrazio tutti i miei ospiti, dando la linea a Oscar Giannino, ringrazio anche oggi Gaia Romani in redazione e Filippo Reggi in regia. E allora, che dire, ci troviamo domani mattina alle 7:30, Bianco o Nero e Radio 24.it, a domani.